Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri il governo Monti ha approvato la legge stabilità. Per la verità si tratta di un disegno di legge. Al suo interno troviamo l'operazione Cielo Buio, che piacerà moltissimo agli astrofili, cioè agli amanti dell'astronomia, che da anni, attraverso un'associazione che si chiama appunto Cielo Buio e che è all'origine del provvedimento, si battono contro l'inquinamento luminoso che impedisce di vedere e di osservare il cielo. Si tratta di un provvedimento che rimanda poi a un successivo decreto della Presidenza del Consiglio per definire standard tecnici per il risparmio energetico tramite lo spegnimento o la riduzione dei flussi di illuminazione in ambienti pubblici. La notizia ha anche generato un po' di polemiche e allora noi ne vogliamo parlare per capire un po' meglio, e lo facciamo con Riccardo Gargioni, direttore di ASSIL, l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione, associazione con 80 aziende associate, aziende che producono apparecchi e componenti per l'illuminazione pubblica anche. Buonasera Gargioni. Buonasera a lei, Melis. Allora, a lei sembra ragionevole questo provvedimento? Perché è chiaro che una città buia tanto intelligente non potrà essere, però è di questo che stiamo parlando? Ma io guardando i vari stralci che sono pubblicati nei vari siti dei giornali, un po' mi sono ricreduto dai titoli, teniamoli, che sembravano molto allarmistici. Esatto, e comunque non rispondenti a poi a quello che è, seppur sommario, perché non siamo ancora in possesso di tutti i dati, sì, ma su quello che è il concetto di questo decreto, che parla di rinnovo degli impianti, regolazione della luce, nel senso di portare la luce dove serve, quando serve. Allora, questo discorso oserei dire che è senz'altro estremamente positivo. È condivisibile, positivo, insomma. Cioè, è condivisibile. Ecco, certo. Facciamo qualche esempio. Cioè, che cosa oggi si può fare con l'illuminazione pubblica? Perché noi siamo abituati a questi lampioni che a un certo punto si accendono e poi, prima o poi, la mattina si spengono. Invece oggi diciamo che ormai da un po' di tempo si possono fare delle robe un po' più raffinate. Allora, dividerei in due il discorso. Solo rinnovando gli impianti obsoleti che abbiamo nelle nostre città arriviamo a risparmiare il 20-30% della luce. Se poi li dotiamo di queste nuove tecnologie sulla regolazione, facciamo contenti tutti, perché comunque la luce si abbassa. Rispettiamo le leggi che ci sono, esistono e sono anche buone. Molte regioni hanno regolamentato l'illuminazione pubblica, diciamo, che mancava però una legge nazionale, che a questo punto c'è o ci sarà. La normativa europea ci aiuta in questo, perché ci dà tutti i parametri su come e quanto abbassare la luce. Ecco, e questo per quanto riguarda la pubblica, salvaguardando anche quell'aspetto che non è solo psicologico, della sicurezza del cittadino quando cammina per strada, e sono tutti aspetti che comunque vanno tenuti in considerazione in un contesto così complesso. Ho letto in uno stralcio che è demandato anche all'ente locale la valutazione di aree non sottoponibili a questo. Penso alle città d'arte. Certo. Ecco, insomma, ecco. Ci sono moltissime implicazioni legate all'estetica, legate alla sicurezza, legate forse anche a, come dire, le istanze che presentano questi signori, quelle invece di avere diritto di vedere le stelle. Io sono un appassionato di astronomia, mi sembra anche quella una cosa abbastanza importante e totalmente invece dimenticata. Questa associazione Cielo Buio fa notare che in Italia abbiamo il doppio di punti luce per chilometro quadrato rispetto per esempio alla Francia e alla Gran Bretagna. Ora la Francia è anche un po' più grandicella dell'Italia come estensione, pur avendo la stessa popolazione, quindi magari poi questi numeri andrebbero analizzati bene, però forse in qualche caso non è che c'è proprio anche da spegnerla la luce? Ma in qualche caso si potrebbe anche pensare. Sono molto perplesso se immagino lo scenario di una città, però attenzione, ci saranno punti, il monumento nella piazza del paesino eccetera si può anche spegnere, a luna di notte, ecco. Si può spegnere, poi magari anche qualche strada extraurbana non, praticamente non percorsa se non da qualche auto, forse si può spegnere durante la notte, no? Come dicevo prima, sia la normativa sia la legislazione ci aiutano, usiamole con intelligenza e forse in questo caso riusciamo a fare un po' contenti tutti. Ecco, per esempio una cosa che si può fare è avere un'illuminazione stradale che durante il crepuscolo aumenta progressivamente, compensando la diminuzione di luce. Illumina molto bene, diciamo in modo intenso, durante le ore del massimo del traffico, poi questa illuminazione scende durante la notte, poi risale per il traffico della mattina e va a calare col salire del sole. Questo, per esempio, è un modo in cui... Ci sono dei regolatori elettronici che sentono anche l'intensità del traffico e quindi a questo punto ne fanno una regolazione adeguata all'intensità di traffico. Del traffico all'intensità della luce naturale. Naturale, eccetera, eccetera. Della luce naturale. Inoltre, lei mi insegna, mi scusi, che queste operazioni hanno dei costi molto ridotti, hanno dei tempi di rientro dal punto di vista dell'investimento molto brevi. Sì, si parla di un ritorno dell'investimento che massimo arriva a 3 anni. E spesso neanche lo deve fare il comune o la città. Certo, perché poi ci sono tutti gli accordi con le varie società di gestione per la gestione dell'impianto e il risparmio dei primi anni va ad ammortizzare questi costi e poi il comune ne trae il beneficio. Cioè questa società cambia l'impianto, lo mette nuovo, si tiene i risparmi per qualche anno e poi... Lo cede al comune che continua ad avere il risparmio. Ecco, allora le chiedo, a sto punto, perché allora non lo si fa? Perché i comuni ricorrono poco a questa possibilità? Beh, non dimentichiamoci che i fondi dei comuni sono stati nel passato recente fortemente tagliati, patti di stabilità degli anni precedenti e poi forse anche un problema di sensibilizzazione degli amministratori pubblici, ecco, questo è un po', è un lavoro che forse tutti insieme dobbiamo riuscire a fare per ottenere davvero significativi risultati. Ecco, lo stesso discorso vale per gli interni, Certo. Sono 2 o 3 accorgimenti molto semplici, anche meno costosi di quelli dell'esterno, che fanno spegnere automaticamente la luce o tengono conto dell'influenza della luce esterna. Anche lì si può risparmiare, perché poi gli ambienti pubblici non sono solo le strade, ma sono gli uffici, le scuole e quant'altro. Certo. Grazie Gargioni. Di niente, a lei, arrivederci Melis. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.